Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buona settimana. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, Filippa Oreggi regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Sono pronti, partiamo. Quello che gli uomini non dicono. Il cervello suona. Un minuto che vale una vita. Non ne parlate volentieri, qualcuno di voi fa proprio prima, non ne parla. Quindi lo faccio io. Oggi parliamo di defiance sotto le lenzuola, se preferite, di patologie che riguardano l'apparato genitale riproduttivo maschile, se vi suona meglio di eiaculazione precoce, disfunzione erettile, di tutte le condizioni e le situazioni che minacciano la salute e il benessere sessuale dell'uomo e quindi della coppia. Molti colleghi e colleghe mi hanno detto: ma certo che però Nico hai un bel coraggio a parlare per radio di questi problemi, sono cose così intime, così private. Sì, dico io, però fino a un certo punto, perché rinunciare ad una buona sessualità per vergogna, per paura, trascurare segnali di allarme importanti per la salute generale mi sembra veramente assurdo. Oggi ci sono fiorfiori di terapie, quindi perché mortificarsi, perché rischiare? Chiedo conferma e intanto li presento ai miei ospiti, il professor Vincenzo Gentile, che è direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma. Professor Gentile, bentornato. Tornato. Buongiorno Nicoletta, ben trovata e a tutti i radioascoltatori. In linea con noi abbiamo anche il professor Bruno Giammusso, che è responsabile dell'unità operativa di andrologia dell'Università di Catania. Professore, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Professor Gentile, è la settimana andrologica e quindi oggi dobbiamo convincere gli uomini a raccontarsi. C'è un numero verde dove possono intervenire ora, 800 24 0024, ma nel corso della trasmissione daremo anche un numero verde molto importante, perché attraverso questo numero verde si può scoprire il centro andrologico più vicino e sottoporsi ad una visita. Un appello, professor Gentile, che lei rivolge a chi? Agli uomini, a tutti gli uomini al di là dell'età, di approfittare, di utilizzare questa occasione che la Società Italiana di Andrologia mette a disposizione appunto degli uomini. Sono ormai 10 anni, questa è la 10ª edizione, è un'iniziativa che offre a tutti gli uomini la possibilità di farsi visitare gratuitamente da un andrologo, che è lo specialista di riferimento per i problemi dell'apparato genitale. Questo avviene su tutto il territorio, oltre 220 centri sono disponibili per una settimana a visitare, e quindi tramite il numero verde, il sito, si può prenotare una visita. Perché questo la Società Italiana di Andrologia lo fa? Perché ha avvertito questa necessità? Perché ci siamo resi conto di quanto l'uomo è reticente, e lei stessa lo diceva all'apertura della trasmissione, diceva praticamente che dice: ma chi te lo fa fare? Cioè viene visto tutto ciò che riguarda l'apparato genitale maschile è come qualcosa che va vissuto nel proprio intimo. Abbiamo perso il professor Gentile, ma abbiamo il professor Giammusso. Sì, in effetti parlare di questi disturbi, professor Giammusso, viene considerato come veramente qualcosa di coraggioso. Chi te lo fa fare, no? Professore, intanto ricordo il numero verde per prenotare queste visite: 800 999 277. Professor Giammusso, il professor Gentile ha detto è un invito che rivolgiamo a tutti gli uomini, indipendentemente dall'età. Sì, perché la prevenzione andrologica è necessaria a tutte le età della vita, non è come comunemente si crede un problema che riguarda solo le persone anziane, ma vorrei dire che addirittura la prevenzione andrologica inizia con la vita. Il pediatra è il primo specialista che fa prevenzione andrologica, perché controlla ad esempio la normale discesa dei testicoli nel bambino, e questa è una delle possibili prime patologie andrologiche che possono influire poi sulla fertilità futura, ma poi anche l'età dell'adolescenza, della pubertà, l'età i 18-20 anni e poi anche l'età più avanzata, e c'è sempre necessità di fare il punto della situazione, e al di là di queste occasioni c'è sempre necessità di fare molta informazione. Perché l'informazione è di per sé un mezzo di prevenzione, ci sono tanti pregiudizi, tante convinzioni sbagliate che poi influiscono pesantemente sulla serenità della vita sessuale dell'individuo adulto, per cui la Società Italiana Andrologia fa dell'informazione una propria missione prioritaria. Perché tra l'altro chi parla, possiamo dire, chi chiede aiuto si salva anche la vita. La disfunzione erettile, è uno dei disturbi di cui tratteremo nel corso della trasmissione, è infatti ormai provato essere la spia di uno stato di salute generale, perché si collega poi anche a delle patologie importanti. Sì, ci sono dati scientifici raccolti su ampia popolazione che ormai lo confermano in maniera inequivocabile. Il soggetto con fattori di rischio vascolare, ad esempio il fumatore o l'obeso o il diabetico, che comincia a sviluppare problemi di erezione, molto probabilmente in un arco di tempo valutabile intorno ai 3 anni in media, potrebbe sviluppare problemi circolatori in altre sedi, ad esempio alle coronarie come la cardiopatia ischemica. Quindi la disfunzione erettile, accorgersi della disfunzione erettile e parlarne col medico può essere un modo per scoprire per tempo il problema e quindi poi agire sui fattori di rischio, modificando gli stili di vita oppure sottoponendosi alle terapie per le patologie croniche associate, quali il diabete, l'ipertensione o il colesterolo elevato. Quindi certamente un segnale importante che consente al medico di attivarsi e al paziente di cambiare gli stili di vita. Professor Gentile, noi ci occuperemo anche di eiaculazione precoce, di varicocele, di infertilità, ma diamo qualche numero. Anche questo aiuta, perché magari sapere che altri hanno il nostro problema può farci prendere coraggio. Assolutamente vero, e i numeri ci aiutano a capire quanto e quanti questi fenomeni sono rappresentati nella popolazione. Se si pensa che l'eiaculazione precoce è presente nel 22% degli uomini dai 18 ai 70 anni, al di là dell'età con la stessa percentuale, il che significa oltre 4 milioni di uomini hanno questo problema. Il varicocele, 28-30% degli uomini al varicocele, che significa che i ragazzi intorno allo sviluppo puberale finiscono con presentare e manifestare un varicocele che, se trattato, naturalmente non crea problema alla fertilità, ma se lasciato lì, abbandonato a se stesso, oggi si tende ad avere figli sempre più tardi, 38, 40 anni, 45 anni, e in quel momento il varicocele ha determinato un'alterazione nella qualità degli spermatozoi, del liquido seminale, quindi problemi di infertilità. Infatti il varicocele è al primo posto nell'infertilità maschile. L'erezione, la disfunzione erettile, il 12% degli uomini ha disfunzione erettile, significa oltre 3 milioni di uomini, e questo dato naturalmente non deve meravigliare se si tiene presente che i diabetici nel 50% dei casi hanno questo problema, gli ipertesi, quelli con alterazione del metabolismo dei lipidi, dei grassi, chi è obeso ha questo problema. Quindi chi è depresso, sono dei numeri che hanno una rilevanza sociale incredibile. Malattie sessualmente trasmissibili, oltre 700.000 uretriti ogni anno, la facilità dei rapporti sessuali, la promiscuità espone a questo problema se non si adottano delle precauzioni, che poi può riflettersi sulla fertilità. Può creare dei problemi e così via. E quindi vi abbiamo dato tante buone ragioni per restare. Un numero verde da contattare, 824 0024, e speriamo anche di così darvi il coraggio per farvi visitare, sottoporvi ad una visita andrologica e approfittare nella settimana di una visita gratuita. Anche questo può fare la differenza. 824 0024, il nostro numero verde pronto per voi, così pure i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Successo sanremese, questo è sicuro, né una hit che arriva da oltreoceano. Non saprei dirvi che genere musicale corrisponde, forse potrei dire che in caso magari nel futuro questo tipo di musica avesse successo, si potrebbe definire come cerebro music. Insomma, tutto è possibile, ma voglio sapere subito il parere della dottoressa Sibillo, medico ed esperta di musicoterapia, che su queste note ha molto da raccontarci. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, e questa particolarissima musica arriva, pensate bene, proprio dal nostro cervello, o meglio, specifichiamolo, dal cervello di un ricercatore americano che si è posto una domanda molto particolare durante le sue ricerche, cioè ha detto: ma il cervello umano può suonare? E se suona, che tipo di musica crea? Allora, questo ricercatore è il professor Ben Lloyd negli Stati Uniti, ha pubblicato a livello internazionale i risultati del suo studio in cui ha saputo trasformare il cervello proprio in uno strumento musicale, in grado di creare musica del tutto propria a seconda delle attività in cui è normalmente coinvolto. Il professor Lloyd è partito dalle immagini del cervello che si ricavano dalla risonanza magnetica funzionale, che è una tecnica che permette di visualizzare una serie di immagini nelle quali aree diverse del nostro cervello, per così dire, si accendono, variando di intensità ovviamente in momenti diversi, permettendo quindi di determinare quali parti del cervello si attivano a seconda di ciò che stiamo facendo. E fin qui tutto come già in uso da molto tempo, ma l'intuizione dei ricercatori è stata quella di associare ad ogni impulso luminoso, che corrisponde quindi ad una precisa area cerebrale, una nota musicale con un volume proporzionale all'intensità luminosa rilevata. Cioè, per capirci, più l'immagine inviata dal cervello è luminosa, più forte sarà il suono associato. Poi ha utilizzato un computer, un programma creato appositamente per questo studio, e il professore ha ricreato la musica proveniente dal cervello. Ma quale cervello? Il suo stesso, cioè si è sottoposto e stesso all'esperimento, cioè si è fatto fare questa risonanza magnetica funzionale mentre faceva attività diverse, ha messo nel computer le immagini ottenute e si è messo ad ascoltare la musica che ne veniva fuori. Semplicemente ascoltando questi suoni lui era in grado di distinguere il momento in cui aveva cambiato attività. Non solo, ma ha voluto mettere a confronto la musica prodotta dal cervello di persone considerate sane e di persone affette da disturbi di tipo neuropsichiatrico, verificando, e qui sono i risultati sorprendenti, che la musica prodotta è molto diversa. Ma dottoressa Sibillo, questa intuizione dove ci porterà? Ma secondo alcuni neuroscienziati, a livello sperimentale, questa intuizione potrebbe aiutare a studiare in maniera decisamente più approfondita le diverse aree cerebrali, perché è efficace nel distinguere ogni minimo mutamento di attività, e pensate, forse ancor prima dell'immagine stessa, arrivando chissà a realizzare in un futuro, speriamo più prossimo, attraverso il perfezionamento delle tecniche, anche un efficace strumento per la diagnostica. Dottoressa Sibillo, il cervello continua ad interessare i ricercatori, ad affascinarci, e da oggi sino al 23 diventa protagonista assoluto perché si apre la Settimana Mondiale del Cervello, e questa è un'occasione per tutti noi di conoscere il suo funzionamento, le sue caratteristiche e soprattutto l'importanza della ricerca scientifica, che negli ultimi anni ha fatto davvero numerosi passi avanti. Noi nel corso della settimana seguiremo, vi proporremo alcuni dei risultati più belli, più brillanti, è il caso di dire, e ci sono proprio sparse in su tutto il territorio nazionale incontri, tavole rotonde, conferenze a cui siamo tutti invitati a partecipare. Intanto, dottoressa Sibillo, io la saluto, buona musica, chissà che la prossima volta non ci porti la sua. Ma sicuramente farò analizzare anche il mio cervello prima o poi, perché la cosa mi incuriosisce molto. Comunque lasciamo che i suoni continuino a dare alla nostra vita sempre un pochino di benessere in più. Buona giornata, dottoressa Sibillo, e buona musica. Grazie a tutti voi. Pronto soccorso. Un maschio su tre dura quanto un colpo di fischietto, cioè una folgore, praticamente un petardo, un colpo di una schioppettata. Ma abbiamo capito, sai, sì, cioè, ho capito. Non possiamo aspettarci grazie, sì. Perché c'è un po' questo, altro che un toro nelle mutande, proprio un colibrì. Sai quando scopri la carta a scoppiettina che fai tic, ecco, finito, sì, finito, boh, vabbè, perché c'è questo problema della precoce. Sì, ho capito benissimo, sì, che non possiamo dirlo. No, non diciamolo, ecco, che possiamo, come possiamo chiamarlo? Non, della, del, chiamiamolo col nome dello scopritore, connessione dello squirrel precoce. Sì, squirrel precoce. Allora, però la cosa interessante è che questo signore dice, intende precoce quello che avviene entro un minuto dall'ingresso, diciamo così, ingresso in loco, ecco. Quindi, capisci, un minuto è il limite della loffiezza. Sì. Quindi, a ragion veduta, uno pensa che allora, squirrel mio, un minuto e mezzo è già grasso che cola. No, capire, due minuti che cos'è? Un colossal tipo Baria? E tre minuti che cos'è? La Teleton di beneficenza del Walter? Altro che siamo andati a letto, messo sul brasato e ci siamo alzati che era bruciato, no? Siamo andati a letto, messo sull'uovo per farlo sodo, ci siamo alzati e era già la coca. Era, l'avete sicuramente riconosciuta, la mitica Littizzetto, e noi torniamo seri perché Luciana ci dà numerosi spunti su cui riflettere. Professor Gentile, noi avevamo già dato i dati, mi scusi la ripetizione, ma è così. Quindi sappiamo che è un disturbo frequente, sembra non fare distinzioni di età. Come possiamo spiegarlo? No, assolutamente frequente, diceva, oltre 4 milioni di uomini, e bisogna tenere presente che l'eiaculazione precoce è una condizione medica che impatta negativamente sia sull'uomo sia sulla sua partner, quindi è la coppia a soffrirne con una serie di problemi che incidono fortemente sulla coppia. Sull'autostima, sulla coppia, sulla relazione in generale. In generale, assolutamente. Bisogna dire e capire che l'eiaculazione precoce viene distinta in relazione all'insorgenza in primaria e acquisita o secondaria. Primaria, cioè che si verifica subito, sin dalla prima esperienza sessuale. Sì. E quindi un uomo su due, ed è la più frequente, riferisce eiaculazione, con eiaculazione precoce, riferisce che ha la prima esperienza sessuale, ma è più del 50%. E peraltro questa è una cosa molto importante che ci spiega perché, quindi, è indipendente dall'età. Uno studio recente ha dimostrato l'ipotesi di un'influenza genetica sul tempo di eiaculazione negli uomini con, appunto, eiaculazione precoce primaria. Quindi l'ipotesi genetica, l'influenza genetica ci spiega tante cose e ci dà ragione del fatto che la malattia è indipendente, il problema medico è indipendente dall'età. Quindi sicuramente questo, invece l'acquisita, che è meno frequente, che compare a un certo momento della nostra vita, può essere secondaria a fatti infettivi, infiammatori dell'apparato genitale, basta pensare a una prostatite, una vescicoloprostatite, un'infiammazione delle vescicole seminali. Tutto questo può determinare in casi molto rari un ipertiroidismo, sicuramente delle situazioni diciamo anche di stress possono influenzare, ma naturalmente amplificare il problema. Però sono condizioni, appunto, che vanno più annoverate in quelle forme secondarie, meno rare. Invece la forma acquisita, che sembra essere legata al problema genetico, all'influenza genetica, è quella che è più frequente, ci spiega tutte le cose che dicevo. Prego. Abbiamo Giovanni che ci chiama da Milano. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Senta, la domanda mia è molto pratica, nel senso, partendo che io ho 35 anni, quindi sono giovane, ok, vabbè, ho la famiglia, ho due figli e tutto, l'unica visita andrologica che ho fatto l'ho fatta al militare, quando, sì. Quindi parliamo di parecchi anni fa, e io chiamavo per questo, nel senso, io mi sono reso conto, vabbè, oltre al fatto che ogni tanto mi capita di essere abbastanza veloce nel rapporto, quindi vabbè, lasciamo perdere, e quando invece, sia quando sono veloce che quando invece sono normale, e dopo aver diciamo aver fatto questo atto, questo rapporto, mi fa male il glande, cioè non è che mi fa male, mi dà molto fastidio, sono molto sensibile. Volevo capire se è una questione mia o devo decidere di andare ad approfittare dall'andrologo. Ecco. Professor Giammusso. Senza vergognarmi. Grazie. Poi la vergogna è inutile, no Giovanni? Perché uno si deve vergognare? Io... No, è perché non lo so. È togliamoci questa vergogna. Professor Giammusso. Sì, togliamola senz'altro. E direi che in qualsiasi caso al nostro Giovanni consiglieremmo di farsi vedere dall'andrologo. La condizione di ipersensibilità del glande può essere anche in questo caso duplice. Se lui l'avverte da sempre, potrebbe essere una condizione proprio strutturale, una patologia che noi chiamiamo ipersensibilità del glande, che è uno stato, dicevo, strutturale del rivestimento del glande, che tiene un po', diciamo, superficiali le terminazioni sensitive, per cui il glande è particolarmente sensibile. In alcuni soggetti addirittura è un fastidio enorme il contatto. E questo rappresenta un problema. Ma se questa condizione si è verificata nel corso della vita e prima non c'era, potrebbe far pensare a uno stato infiammatorio. Quindi, e a questo punto è necessario che venga visto dallo specialista per capire a quale delle due condizioni possiamo far risalire il problema. Certo. siamo tornati insieme oggi in occasione della settimana andrologica. Ci occupiamo degli uomini ed è un invito che però faccio anche alle ascoltatrici: non è una puntata solo dedicata agli uomini, molto spesso le mamme, le compagne diventano proprio le persone che li convincono a farsi visitare. Il professor Giammusso ha infatti ricordato che sin il pediatra, proprio dalla più tenera età, il pediatra può diagnosticare dei problemi e questi vanno diagnosticati per tempo, quindi benvengano le visite. E lì con noi abbiamo Franca da Bergamo. Franca, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Complimenti per la... Sì, devo anche fare sì, per la trasmissione. Mi scusi, ma io sento male la telefonata. Sì, proviamo a vedere se tutta di filo riesce a fare una domanda, che così io la metto in contatto con i miei esperti. Ecco, perfetto. La mia domanda è questa. Io ho un ragazzo di 15 anni, sì, che l'ho portato dal mio medico di base per un controllo, sì, e lui gli ha trovato un varicocele. Mm. Abbiamo fatto un'ecografia, dopo un mese un'altra ecografia, e questo varicocele sembrava sparito. Volevo chiedere, può sparire così velocemente? E se è una cosa ereditaria, avendo mio padre che ne ha sofferto? Grazie Franca. Professor Gentile. No, diciamo che non può sparire così. Se c'è. Ci sono delle forme subcliniche a volte che è difficile diagnosticare, richiedono una particolare sensibilità. Il varicocele si distingue infatti in forme subcliniche, oppure nella maggior parte dei casi nelle forme cliniche si distinguono dei gradi più in rapporto alla presenza più o meno marcata, cioè una dilatazione più eccessiva delle vene. In fondo è una varice, una dilatazione venosa, come le vene varicose agli arti inferiori, per intenderci. Quindi c'è un varicocele di primo, secondo o terzo grado, quindi probabilmente può esserci questa situazione, ma se c'è, sta lì, può aumentare con il tempo, con l'età, e quindi lentamente, in maniera insidiosa, fare il suo danno sul volume testicolo, sul testicolo. A quell'età, per esempio, capire se il varicocele sta creando qualche problema al testicolo lo si fa attraverso la misurazione del volume testicolare, cioè se il testicolo in rapporto all'età c'ha un normale sviluppo, significa che il varicocele può stare lì, al di là del suo grado, dell'essere clinico o subclinico. Poi più avanti lo controlleremo con il liquido seminale, perché ci sono alcuni varicoceli che non danneggiano. Dicevamo che un 30%, 28-30% degli uomini ha il varicocele. Di questi, un 40% spesso non subisce, soprattutto nelle prime decadi, un danno organico, e quindi poi che si trasmette in un danno funzionale. Allora va seguito il ragazzo. In questo caso, a 16 anni c'è un varicocele. Io propenderei per l'ipotesi che se qualcuno l'ha avvertito, c'è. Però può darsi pure che non c'era perché non c'è, non perché sia scomparso. È stata un'eccessiva sensibilità da parte del collega che l'ha diagnosticato, o invece naturalmente per condizione particolare, per una manovra, quando noi visitiamo un paziente lo facciamo fare certe prove di sforzo proprio per avere un iperafflusso, un ritorno venoso maggiore. In questo caso mi preoccuperei di valutare lo sviluppo della gonade, del testicolo. Se in linea con l'età, starei tranquilla, e poi lo rivaluto dopo i 18 anni, 20 anni, 22 anni. Torniamo dalla nostra Luciana Litizzetto. Gli uomini al medico spesso non dicono nulla, però in coppia si giustificano così. Non è tanto la precocità, sì, cioè quello che ci sfibra proprio come la barba della pannocchia, sono le cose che il maschio dice in quelle situazioni per scusarsi. E che naturalmente non possiamo ripetere. Noi invece le diciamo. Una fra tutte, scusa, è perché mi piaci troppo. È colpa del sellino, vado in bici. E togli l'amore, chissà che magari. Oppure, non so, sono i jeans troppo stretti, infiammano. È colpa del sellino, e Luciana diceva toglielo amore mio, ma noi vediamo se questo sellino è l'imputato numero uno. Viene spesso tirato in ballo. Proprio venerdì scorso parlavamo di bici, io ho rimandato i miei ascoltatori che mi scrivevano messaggi: ma allora sarà la bici, che cosa fa male, fa bene? Io ho invitato il professor Colpi, che è direttore dell'unità di andrologia all'ospedale San Paolo. Buongiorno professore. Buongiorno signora. Ma allora, questo sellino? Il sellino può essere oggettivamente parzialmente incriminato, senza forse cedere nel drammatizzare le cose. Mm. Diciamo che mediamente parlando, chi fa sport migliora il suo apparato cardiovascolare, quindi è meno suscettibile a rischi di danno sull'erezione. Sì. Tuttavia, in effetti, amatori che ciclisti amatoriali che fanno uso di bicicletta per più di 20.000 km l'anno sono maggiormente esposti a un rischio di deficit retivo, soprattutto i segnali d'allarme devono essere quando il paziente si ritrova con il ciclista si ritrova con un problema di scarsa sensibilità ai genitali, sì, o di formicolio o addirittura di anestesia ai genitali dopo appunto aver corso in bicicletta. Questo vuol dire che per la posizione che ha sul sellino in realtà ha compresso le arterie che portano sangue e quindi ossigeno al pene e agli organi genitali in genere, e che ha irritato i nervi. Questo può essere causa di un danno cronico e conseguentemente predisporre appunto il ciclista più facilmente a un problema di erezione. Quindi attenzione al sellino, attenzione ai chilometri e soprattutto a questi segnali che vi devono suggerire che cosa, professor Colpi, oltre che scendere dalla bici e cambiare sellino? Devono suggerire di migliorare la posizione sulla bicicletta, cambiare il sellino, nel senso che il sellino deve essere modellato in base proprio alla conformazione corporea, cioè il soggetto deve appoggiarsi sul sellino con le due tuberosità ischiatiche, cioè con quegli ossi che sente bene quando si siede su un qualcosa di duro, esatto, e soprattutto non ci deve essere qualcosa che comprime in mezzo alle due tuberosità ischiatiche, cioè che comprime l'area peniniana. Infatti ci sono vari sellini oggi, bisogna fare molta attenzione anche all'imbottitura, che non sia un'imbottitura troppo rigida, perché altrimenti tanto vale. Ci sono vari sellini addirittura che hanno un buco nel mezzo, proprio per evitare la iperpressione e al tempo stesso migliorare la termodispersione locale. Quindi il sellino, scegliete quello giusto. Esatto. Perché lo sport comunque fa bene. Grazie professor Colpi per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata anche a lei, signora. Professor Giammusso, vengo da lei perché molti ascoltatori mi dicono: ma cosa vuol dire precoce? Beh, precoce lo abbiamo sentito dalla Littizzetto. C'è un tentativo di stabilire dei tempi. In realtà non si può mettere un limite di tempo, perché in realtà non è tanto soltanto precoce ciò che avviene rapidamente, ma è precoce ciò che determina disagio nella coppia, quindi c'è anche una prospettiva soggettiva della coppia, come la coppia vive questi tempi. Quindi io non darei dei tempi, direi che orientativamente la stragrande maggioranza degli eiaculatori precoci sta sotto il minuto, però ci sono casi di eiaculazione precoce anche che si definiscono tali anche con tempi di rapporto superiori al minuto. Teniamo presente quindi che i tre dati per definire l'eiaculazione precoce sono: uno, anzitutto il tempo rapido, l'altro è la mancanza di controllo, quindi quando il soggetto avverte l'incapacità a controllare l'eiaculazione e a prolungare volontariamente la durata del rapporto, il terzo è il disagio, cioè deve essere una condizione di malessere psicologico per entrambi i componenti della coppia, e questo è certamente il dato più rilevante, perché poi è quello che determina la ricaduta in termini di qualità di vita della coppia. Professor Gentile, noi tra poco parleremo anche di disfunzione erettile, ma sull'eiaculazione precoce ci sono numerose terapie. Alcuni ascoltatori mi dicono no agli antidepressivi che mi hanno prescritto ma che poi alla fine non funzionano. È solo questa la strategia terapeutica o c'è dell'altro? No, allora bisogna fare... C'è un'ambulanza, lei sta in un ospedale e quindi giustamente ci sono le ambulanze. Peraltro devo dire che approfitto, se mi è possibile, per completare la domanda che ci aveva posto la signora con il bambino sul varicocele, che diceva se era ereditario. No, si tende ad ereditare più una struttura fisica, per esempio più frequente nei soggetti longilini astenici, quindi non in quanto tale ereditaria, ma laddove ci sono dei soggetti con certe caratteristiche strutturali fisiche, lì si può, è più facile il varicocele. E a proposito di numero verde per la settimana andrologica, professor Gentile, approfitto per rassicurare gli ascoltatori che stanno chiamando dicendo il numero è occupato. Professor Gentile, questa è una cosa che a voi fa piacere, perché vuol dire che finalmente qualcuno parla. Parla, infatti quasi tutti i centri cominciano ad essere saturati, perché ovviamente c'è una voglia di andare incontro a tutti, però siamo di fronte a una domanda incredibile e questo fa piacere. Si può andare anche sul per informarsi sito? Sui centri tramite sul sito www.andrologiaitaliana.it e lì si trovano i centri. Chiamate direttamente il centro se il non centro ce la fate. Che è più vicino alla propria sede di residenza. Insomma, allora, torniamo a noi, professor Gentile. Eiaculazione precoce l'abbiamo definita, abbiamo capito che ce n'è una primaria e una secondaria. Il professor Giammusso ci ha detto il tempo rapido, la mancanza di controllo, il disagio nella coppia. Questi sono tre elementi che vanno considerati. Molto spesso si pensa sia un problema psicologico. Molti nostri ascoltatori aggiungono: ho preso antidepressivi per questo problema, è andata peggio. Allora, può essere un problema psicologico dettato magari anche dall'emozione o all'inizio dell'attività sessuale dall'inesperienza? Allora, sicuramente bisogna essere decisi nelle risposte per sfatare dei falsi miti. Allora, diciamo che nella maggior parte dei casi è una condizione assoluta, è una condizione medica, peraltro sottodiagnosticata e sottotrattata. Gli uomini, proprio perché pensano sia una situazione così, che non ha niente di medico, si rivolgono pochissimo allo specialista, al medico. Solo il 9% degli uomini che soffrono di eiaculazione precoce ha consultato il medico. Sì. Quindi, diversa è il caso di una eiaculazione precoce legata ad una situazione relativa, e lì alcuni fattori possono naturalmente giocare un ruolo importante, quale l'inesperienza, quale l'ansia, la tensione, però sono situazioni poco frequenti, sono situazioni naturalmente che sono legate alla meno frequente rispetto a quelle altre, a quelle in cui il fattore genetico e quindi come tale va capita che è una condizione medica, gioca un ruolo importante. Quindi è la frequenza, no? Se me li hanno può starci. Certamente, quella quando è occasionale va certo. Bene, ma quando invece si presenta subito, sin dalla prima esperienza sessuale e quindi con continuità, allora a quel punto invece è la condizione che compromette il vissuto psicologico dei pazienti. Pensi che da una serie di osservazioni su questi pazienti è emerso che il 44% ha naturalmente un senso di frustrazione, quindi il 36% ansia, il 20% depressione, quindi livelli di stress psicologico incredibili che sono determinati dall'eiaculazione precoce. Comunque ci sono delle terapie, corro un po' perché abbiamo tanti ascoltatori. Professor Gentile, oggi si cura, possiamo mandare questo messaggio? Sì, oggi abbiamo un farmaco approvato per il trattamento dell'eiaculazione precoce, un farmaco che si prende contrariamente agli antidepressivi on demand, quindi indicazione terapeutica che è molto importante dal punto di vista medico-legale. Secondo, un farmaco con l'indicazione per l'eiaculazione precoce e un farmaco che si prende subito prima ed efficace dalla prima somministrazione. Queste tutto sono caratteristiche incredibili, comincia a dare la sensazione del controllo dell'eiaculazione, comincia a migliorare e indirettamente riduce, come diceva bene il professor Giammusso, la frustrazione dell'uomo e della partner, certo. E quindi migliora la soddisfazione sessuale e quindi inverte un trend negativo, da lì può partire poi un trend positivo che lentamente può restaurare una condizione armonica di attività sessuale. Andiamo a Luciano da Verona, a Giorgio dalla provincia di Verona. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Vuole fare la domanda? Sì, allora... Mi dica lei. Diciamo che io non ho problemi né di eiaculazione precoce né né di erezione. Io ho avuto una vita sessuale normale fino a 40 anni, anzi piuttosto attiva. Sì. Però da un po' di anni il rapporto sessuale non mi soddisfa più. Faccio fatica. Allora, ma nel senso che non è più interessato? Esatto. Professor Giammusso, se uno perde interesse... Il calo del desiderio è una delle disfunzioni sessuali maschili di cui ci occupiamo ed è un problema importante, anche questo ha una incidenza notevole e anche questo ha una notevole ricaduta sulla qualità della vita. Andiamo a Giorgio dalla provincia di Verona. Giorgio. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, Giorgio. In sintesi, ho 70 anni e zero assoluto. Data l'età, mi devo rassegnare o no? Grazie. Professor Giammusso, non la sentiamo più. Professor Gentile? No, sicuramente il paziente ha detto che ha 70 anni. 70 anni. Sì, sicuramente con l'età lentamente c'è un calo del testosterone che ha la sua influenza, però sicuramente no, l'attività sessuale si può e si deve fare anche in età avanzata se non ci sono altre controindicazioni. Quindi se il paziente ha queste difficoltà bisogna che naturalmente vada a fondo. Magari è un paziente, bisogna chiedere se è diabetico, quindi deve andare da un andrologo, se è ipertenso, ci sono dei farmaci in quella fascia di età che si assumono che hanno una influenza negativa il peso del paziente. Quindi assolutamente si può intervenire e consigliargli una terapia adeguata e la correzione dello stile di vita, perché questo è assolutamente importante. La sedentarietà, il fumo, la pressione elevata, una dieta sbagliata, i chili di troppo marciano contro l'amore. Io vorrei farvi sentire un piccolo contributo, perché vorrei proprio mandare un messaggio su un altro disturbo sessuale. Un tempo veniva chiamata impotenza. A Roma l'anno che ci arrivai mi accadde un fatto nuovo. La sera stessa del mio arrivo mi recai in una certa casa e prima di avere timori o nausee io riuscii ad essere uomo. Bene. E allora? La cosa mi parve talmente incredibile che uscii barcollando di felicità. Baciavo tutte le porte, i muri che erano allineati tra il luogo della mia vittoria e casa mia. Quello fu il periodo più bello della mia vita. Allora ero giovane, le donne mi volevano un bene dell'anima e io almeno ogni tanto riuscivo a rendere una di loro pazza di gioia. Poi un giorno incontrai una donna. Parle. Com'era bella, un angelo. Si chiamava Paola. Ma insomma, ci sei stati insieme o no? Spensi la luce e ci abbracciamo. E allora, d'improvviso, un freddo sgomento mi entrò nel corpo fino a paralizzarmi. Lei rimase così seduta sul letto e io le scivolai accanto con la bocca contro le coperte, con le labbra che mi tremavano. Era il bell'Antonio con un magnifico Mastroianni. Professor Giammusso, che abbiamo ripescato, che cosa? Abbiamo proprio un minuto, ma volevo dare un po' di spazio a questo disturbo di cui ci siamo occupati per intere puntate, per cui potete anche risalire all'archivio. Che cosa c'è tra il bell'Antonio del scorso secolo e quello di oggi? Ci sono cambiati? Sono cambiati. Il bell'Antonio è una bellissima pagina di sessuologia, devo dire che troviamo in questo romanzo tantissime di quelle situazioni che noi spesso cogliamo negli ambulatori, ed è il quadro di un'ansia da prestazione, cioè un giovane che perde la propria capacità erettiva per il peso psicologico dell'ansia che lo assale al momento del rapporto, e lui lo descrive molto bene anche nelle parole che abbiamo sentito. Beh, è cambiato qualcosa, allora la commissione d'esame che metteva quest'ansia ad Antonio era la famiglia e la società, oggi è la donna. Nel senso che oggi l'ansia da prestazione trova le proprie radici soprattutto in una figura femminile un po' più aggressiva, più consapevole della propria sessualità, ma sia nel bell'Antonio del secolo scorso che nel bell'Antonio che vediamo oggi in ambulatorio alla fine c'è un uomo insicuro, spaventato, a volte terrorizzato dalla necessità di dare una prestazione. E su questo è importantissimo intervenire per tempo, perché si possono creare delle gabbie psicologiche terribili che poi portano l'uomo ad abbandonare totalmente, a evitare l'occasione del rapporto, perché il timore del fallimento, certo, prevale. Lo attanaglia. Quindi noi abbiamo voluto proprio farvi ascoltare questo brevissimo estratto per mandare un messaggio a chi si riconosce in questo profilo: una visita andrologica, parlarne con un esperto può aiutarvi ad affrontare il vostro problema. Intanto ringrazio il professor Bruno Giammusso e il professor Vincenzo Gentile per essere state con noi. Grazie, ci avete dato una mano. Noi vi ringraziamo, grazie a lei. Buona giornata, noi torniamo come sempre domani dopo il GR delle 11, vi aspetto.